Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, lei ha promesso il 28, 29, 30 ottobre alla Leopolda un Big Bang per quel che riguarda il Partito Democratico. Vale a dire? No, non abbiamo promesso il Big Bang del Partito Democratico. Abbiamo detto che la politica italiana avrebbe bisogno di un bel Big Bang, perché se guardiamo i giornali, anche quelli di oggi, la stanchezza e, se mi permette, anche un po' la nausea, credo che rischi di sopraffarci tutti. L'anno scorso parlammo di rottamazione, l'anno scorso cioè proponemmo un cambio totale della classe dirigente e fummo presi per dei matti. Ora, dopo quest'anno, per come l'abbiamo vissuto, praticamente tutti chiedono la rottamazione, dagli imprenditori al mondo della cultura, tutti chiedono un ricambio totale della classe politica. E allora credo che il Big Bang di cui abbiamo bisogno è tentare di raccontare che cosa vorremmo fare noi adesso, cioè mettere da parte per un attimo la sola questione anagrafica, la sola questione del ricambio, e dire ok, li mandiamo a casa, siamo tutti d'accordo, sì, però per far che cosa? Questo è il vero punto. Ma tra l'altro lei ha promesso una sorpresa, ora non so se ci vuole svelare questa sorpresa. No, una sorpresina sembra l'ovino Kinder, a dirla così, sì. Quindi non è il massimo. No, io la cosa che abbiamo detto è che in questi 3 giorni che faremo a Firenze, dal 28 al 30 ottobre, partiremo venerdì sera e finiremo domenica all'ora di pranzo, vorremmo concludere i lavori non nel politichese più tradizionale, per cui arriva uno che si candida o un altro che si rilancia sulla corrente interna del partito, ecco, a queste robe per il momento non siamo minimamente interessati, ma tentare di tenere insieme, di trovare un modo carino che annunceremo in quei giorni per tenere insieme i tanti che, vincendo la rassegnazione, lo schifo e il disgusto, verranno alla Leopolda per mettersi in gioco anche loro. Quindi l'obiettivo della sorpresa che cos'è? Quello di dire, ragazzi, non è che finisce una 3 giorni e poi tutti a casa, chi se ne frega, tutti a casa a festeggiare il Ponte dei Santi. No? Ho capito, ma cosa potrà essere mai questa sorpresa? Lei ha già detto non che io mi candido o che qualcuno si candida. Perché l'idea che tutto si possa risolvere semplicemente candidando uno, secondo me è un po' ridicolo, visto che in questo momento poi si candidano tutti, è fantastico, per cui nessuno sa ancora come funzionano le cose, ma tutti si candidano. Allora, mettiamo le cose in ordine. Siamo convinti o no che in questi 20 anni l'Italia abbia perso una serie di occasioni incredibili? Cioè, al netto delle polemiche tra i partiti, chi se ne frega, da italiani, diciamolo come dire da italiani, da orgogliosi italiani, è mai possibile che in questi 20 anni abbiamo rinunciato a battere dei calci di rigore e abbiamo una situazione economica e finanziaria che è quella sotto gli occhi di tutti? Allora, che cosa vogliamo fare per il futuro? Iniziamo a dire cosa concretamente immaginiamo di fare. Io sono tra quelli che crede che questa crisi, paradossalmente, sia una gigantesca opportunità, perché potrebbe essere la volta buona in cui finalmente, con un po' di coraggio, un po' di tenacia e un po' di orgoglio, riusciamo a rimettere in ordine i conti e in qualche modo le prospettive del nostro paese. Senta, sa che D'Alema, che non siete mai teneri tra voi due, ha detto: non mi stupirei che venisse fuori una qualche proposta interessante da quella 3 giorni. Cosa devo commentare? Mi dica. Nel senso, invece, di solito è sempre duro, invece dice: attendo e potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Fa piacere, diciamo, io non ho niente di personale contro il presidente D'Alema, credo che sia uno dei leader di questo periodo storico, di questo ventennio, una persona che ha avuto grandi responsabilità sia nel partito che nelle istituzioni, e non c'è nessuna polemica personale nei suoi confronti. Dico soltanto che quando una classe politica finisce il proprio compito, è giusto che lasci spazio ad altri, quindi io non ho mai fatto una polemica sulla persona. È chiaro che D'Alema rappresenta per molti aspetti quella generazione contro la quale noi stiamo lealmente combattendo. Quindi, non so, D'Alema, la Bindi, anche, cioè lei nel nuovo Parlamento, perché forse si vota nel 2012, c'è anche questa ipotesi, non vorrebbe vedere i D'Alema, le Bindi? Io, facendo il sindaco di Firenze, cioè facendo il sindaco di una città, e quindi come tale, dovendo occuparmi tutti i giorni non delle correnti del partito, ma dovendomi occupare degli asili nido e dei centri anziani, credo che, o delle gare pubbliche, per cui per fare un parcheggio ci vuole un anno a farlo e 4 anni e mezzo di carte, perché poi alla fine la gente esce di testa, ma le garantisco che la burocrazia stritola tutto anche a noi, facendo questo mestiere qui vorrei un Parlamento che non si limitasse a fare grandi proclami il primo giorno. Il primo giorno di scuola sono tutti bellini, il primo giorno di scuola tutti faremo, sarà, lei faccia il conto di quante volte alla prima seduta del Parlamento i parlamentari romani hanno detto questa sarà una legislatura costituente, questa sarà una legislatura di riforme. Dopodiché le dico, ma lei ha visto le riforme delle infrastrutture? Le sembra oggi più semplice costruire in Italia? Le sembra più semplice la deburocratizzazione di cui ci avevano parlato? O, per entrare sui temi più concreti, le sembra più semplice il modello di diritto del lavoro e più in generale di sistema di welfare che è stato costruito? Cioè ci vogliono altre persone, altri politici. C'è una regola nel PD che non è mai stata rispettata, che dice se tu hai fatto 3 mandati in Parlamento devi dare spazio ad altri. Ma ci sono le deroghe. Capito, però scusi, un paese che è fondato sulle deroghe, dove vuole andare? Iniziamo a fondare un paese sulle regole e non sulle deroghe. Perché poi ti dicono tutti, no, è vero, ma con questa regola in America non ci sarebbe potuto restare in Parlamento per 40 anni Ted Kennedy. Il problema è che parlano di Ted Kennedy, ma difendono Scilipoti, non so come dire. Cioè, da noi non c'è Ted Kennedy, ci sono questi filosofi contemporanei, come appunto Scilipoti, o gente che sta lì da 30 anni, poi si candidano ogni tanto nei comuni e perdono. Lei guardi quanti parlamentari si sono candidati o alle comunali, perché nel territorio non hanno il voto nemmeno dei parenti, questo è il problema. Nel condominio, se si va alle elezioni condominiali, perdono vicino di Canerotto. Se si vota nel 2012, il PD è pronto, secondo lei, se si votasse nel 2012? Ma il PD deve fare un giochino particolare che si chiama primarie. Cioè il PD deve consentire ai dirigenti, agli iscritti, ai militanti, ai simpatizzanti, a quelli che hanno voglia di credere nel PD, di scegliere un candidato con delle idee. Cioè le primarie non sono soltanto voto Tizio perché è più simpatico di Caio, no, le primarie sono anche una grande occasione per dire voto Tizio perché le sue idee sono più affascinanti di quelle di Caio, e quindi di conseguenza il PD sarà pronto nella misura in cui farà queste benedette primarie, che dovranno essere aperte. Cioè dovranno, se lei vuole andare a votare perché lei apprezza Bersani o Vendola o una ragazza trentenne che si candiderà all'ultimo tuffo, chi lo sa, lei dovrà avere la possibilità di andare a dare il suo euro, come si sono sempre fatti, e votare. O Renzi, cioè, perché lei conferma alle primarie ci sarà o no? Perché un giorno dice sì, un giorno faccio il sindaco di Firenze. No, io guardi, ho sempre detto la stessa cosa, tant'è vero che a dispetto dei 36 anni ho l'accusa di arteriosclerosi galoppante da parte dei miei amici. Io continuo a dire la stessa cosa. Uno della nuova generazione ci deve essere per forza. E ci deve essere per forza non perché noi vogliamo mettere la carta d'identità, ma perché per le cose che stiamo dicendo e che diremo alla Leopolda, dalla privatizzazione della RAI alla riorganizzazione del lavoro secondo il modello della flexicurity di Ichino, dalla riforma delle pensioni, perché la nostra generazione se no le pensioni le vede col binocolo, alla riorganizzazione dello Stato, dimezzando il numero dei parlamentari, eliminando le province, eliminando un po' di posti oltre che di costi della politica. Quindi questo è il menù. E dopodiché chi è lo chef di questo menù? Lo vedremo insieme. Io personalmente ho sempre detto che per quello che mi riguarda ho un impegno con Firenze che vorrei continuare ad assolvere, e ho anche detto che comunque questo tipo di scelta sarà una scelta condivisa con tutta una serie di ragazzi e ragazzi che verranno alla Leopolda, perché poi qui sembra che alla Leopolda ci sia Renzi che è il solo che può candidare. Io non sono né il solo né sono solo, la Leopolda sarà aperta da un 36enne consigliere regionale del PD Lombardo che si chiama Davide Faraone. Faraone è uno di quelli, per darle un'idea, che in Sicilia non vuole l'alleanza del PD con Lombardo, a differenza di quello che vuole il gruppo dirigente. Insomma, siete un gruppo chiaramente massimo. Ci sarà Matteo Richetti, che è uno che è il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Mitico, l'abbiamo invitato qua, dopo che ce l'aveva citato lei, l'abbiamo invitato qua per parlare di lotta agli sprechi della politica. Da Savona a Gubbio, dal nord al sud, vedrete che ci saranno un sacco di persone, insieme decideremo. Però ai cittadini, secondo me, non gliene frega niente di sapere se il Renzi si candida. Beh, insomma, un pochino la politica sì. Devo fare due domande flash che devo chiudere. Bersani, secondo lei, è il leader giusto per il PD? Lo diranno le primarie. Meglio andare al governo o lo scudetto alla Fiorentina? Non me la dica così, via. No, deve scegliere però, se no... Okay. io, scusa, perché non l'ho mai visto, al governo perlomeno in qualche momento ci siamo stati, diciamo così, mi faccia fare un'unica risposta un po' paraguru, come si dice, un po' paradorosea. Diciamo che spero di andare al governo insieme allo scudetto della Fiorentina, ma mi rendo conto di non aver risposto e di essere stato il più triste politico della storia. Va bene, buona giornata. Sullo scudetto della Fiorentina le concediamo di essere vecchio politichese. Grazie, buona giornata al sindaco di Firenze, Matteo Renzi, e Partito Democratico. Ci fermiamo e poi pubblicità e meteo. Condono. Allora, condoniamo? In Italia non si fa quasi mai, e quindi chissà, arriva una novità, il condono. Allora, le 8:37 minuti, condono, torna questa parola. Non basta l'Unione Europea che dice: guardate che perdete in credibilità se c'è una forma di condono. Non basta la Corte dei Conti. Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore trovate Gianni Trovati racconta, pagina 7, una cosa molto interessante. A parte c'è tutto il riepilogo di tutti i condoni nella storia, ma insomma, sapete quanti sono stati i condoni dal 1900 oggi? 58. Uno ogni meno di due anni tra il 1977 e il 2002. Questo è il dato secondo me più incredibile, tra il 1977 e il 2002. L'ondata di queste misure perdonistiche sul fronte fiscale seguite alla riforma hanno coperto di fatto 21 anni su 26, cioè l'80% degli anni, 21 su 26 sono stati coperti da qualche forma di condono. Allora, però il partito del condono c'è. Qualcuno dice che addirittura dopo la bocciatura ieri alla Camera del rendiconto dello Stato, qualcuno abbia rilanciato: ora Berlusconi devi fare il condono. Saluto l'onorevole Marco Pugliese, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Da parte di Forza del Sud, che è ora nel gruppo Mist. Saluto anche il senatore Massimo Garavaglia della Lega Nord. Buongiorno e benvenuto, Garavaglia. Sì, buongiorno, buon lavoro. Tra l'altro lei è vicepresidente della Commissione Bilancio, anche Pugliese è membro della Commissione Bilancio. Intanto Pugliese, ci tolga subito un dubbio, lei c'era ieri, ha votato, non era quell'unico voto che ha fatto? No, certo. Ha votato. In aula e ho votato. No, perché sa, adesso c'è la caccia a chi ha fatto mancare all'interno della maggioranza questo voto. Senta Pugliese, lei fa parte del cosiddetto partito del condono, cioè di quelli che dicono perché no un condono. No, io non è che faccio parte del partito del condono, io ho il mio partito che, come ha detto lei giustamente, si chiama Forza del Sud, verso il Grande Sud, e faccio parte della Commissione Finanze, quindi numeri alla mano, credo che indipendentemente da quello che è un fatto etico, morale, come lei giustamente ha sottolineato, l'unico modo per fare cassa immediata per lo Stato è una forma di condono. Lo vogliamo chiamare condono, lo vogliamo chiamare concordato, la vogliamo chiamare sanatoria. È l'unico strumento che porterebbe cassa immediata allo Stato per fare il decreto dello sviluppo. E questo sì, però altrimenti decreto sviluppo si no, fa? Certo, però fare cassa da una parte, e l'Unione Europea dice perdete in credibilità, e poi l'ha detto questo dato sul Sole 24 Ore degli ultimi 21 anni su 26 coperti da condono, cioè c'è un problema di credibilità. Uno perché dovrebbe pagare la tassa, perché dovrebbe fare tutto secondo le regole, se tanto sa che prima o poi in Italia si condona. Guardi, tutto. Noi a proposito d'Europa veniamo da due manovre importanti e molto esose, la prima di luglio e la seconda di settembre, dove per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, con queste due manovre, l'Italia entro il 2013 con i 140 miliardi raggiungerà il pareggio di bilancio. Quindi l'Europa sì, è lì che controlla e che vigia, però l'Europa, se non si tratta di questioni che riguardano prettamente l'IVA su altre forme di sanatoria, può dire quello che vuole, insomma, sì, con tutto rispetto. Sì. Il problema che non è che è partito il condono dal sottoscritto ed è la proposta oppure dal partito del condono. Io vivo il territorio, conosco le associazioni di categoria, tanti cittadini che a gran voce ci chiedono, perché qui non si tratta di privilegiare i furbi, così come giustamente può dire qualcun altro. Il condono è richiesto innanzitutto da coloro che a fine mese non riescono a pagare i tributi perché c'è la crisi, e quindi viene anche da persone che dicono meglio fate il condono che magari aumentare le tasse ai cittadini. Guardiamolo in generale. generale ci sono situazioni magari di difficoltà, molto spesso ci chiamano anche gli ascoltatori, ci sono anche però i premiare furbi. Bisogna vedere, anche siccome stiamo parlando del nulla, perché nulla è stato ancora fatto, né il decreto e né proposte di condono, si parla di proposte che potrebbero, io prevedo un condono molto rigido con dei vincoli per il governo che quei soldi incassati dal condono vengano spesi per cose utili e importanti per la collettività. Quindi condono, fare cassa ma utilizzare quei soldi per la collettività. Vincolare per le famiglie, per le imprese. Qualcuno dice anche vincolarle a una riforma fiscale vera per cui dal giorno dopo, ma anche questa sentita tante volte, condono, ma dal giorno dopo chi sgarra in galera. Senatore Garavaglia, messa così le piace un po' di più, cioè le potrebbe piacere un po' di più, la Lega è contraria. Bossi dice no al condono. Che pensa, senatore? Ma guardi, partiamo da un aneddoto che può forse aiutare a inquadrare meglio la situazione. Giovedì scorso ero con il presidente Giorgetti della Camera a Bruxelles per la riunione che facciamo dei membri delle commissioni bilancio con gli altri 27 paesi per le varie questioni che ci riguardano, ovviamente. Ebbene, mentre di solito la delegazione italiana è messa al centro dell'emiciclo con Svezia, Francia, Germania, questa volta ci hanno messo nell'angolino con Cipro e la Grecia. Perché? Cioè, dice che hanno fatto questa scelta, ci legge dietro qualcosa, senatore? Ma secondo me mettono in ordine di rating, però al di là delle battute la mettiamo sul ridere, ma la situazione è seria. È tanto seria, tant'è che noi siamo secondi solo alla Grecia nella triste classifica dell'evasione fiscale, per cui questo è un problema molto serio. È evidente che in una situazione del genere mettere in campo il condono, che è tutt'altro fuorché una misura strutturale, innanzitutto rischierebbe di metterci in difficoltà con l'Europa, con il piano di rientro che ci siamo impegnati a fare, perché se c'è una roba che non è strutturale è per definizione il condono. Secondariamente mette in estrema difficoltà la possibilità di recuperare quei 4 miliardi proprio di misure antievasione che abbiamo messo nella manovra di agosto. Ci ricordiamo che per coprire il fatto che è stato tolto il contributo di solidarietà, secondo me anche questo è stato un errore, perché uno che prendeva 100.000 euro, santa pace, se versava 285 euro non andava in fallimento, però pazienza, si è scelto di fare questa operazione, il risultato, un punto di IVA da una parte e quindi risorse in meno per la riforma fiscale e per lo sviluppo e misure antievasione per 4 miliardi. Senatore, pare è chiaro che se si fa il condono poi si fa fatica poi a pretendere che dopo tutti pagano. Senta, le chiedo, è anche una visione nord-sud, glielo chiedo perché pare che ieri, così citava Repubblica, Bossi abbia anche detto il condono è una roba da terroni, a noi al nord non serve. Ma c'è anche questa questione, va stratificata, perché non è solo nord-sud come distribuzione dell'evasione. Sappiamo tutti che se in Lombardia si evadono 6 euro ogni 100 dichiarati, dati sulle 24 ore, quindi gioco in casa, la media nazionale è 19, tre volte tanto, e tutto il meridione è sopra i 30 euro fino ai 48 della Calabria. Quindi c'è una questione sicuramente di diffusione territoriale, ma anche di diffusione dimensionale, per cui basta andare a vedere i dati. Nei condoni precedenti, alla fine a pagare, a fare il condono sono di solito grandi imprese, e queste per lo più del nord, dove i manager si vogliono riparare dal rischio di dover poi pagare di tasca loro, quindi a fronte di forme di elusioni preferiscono pagare ti saluto. Ma quindi è un'ingiustizia sia territoriale che dimensionale. Allora, andiamo noi a martellare i piccoli come al solito. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi vorrei capire perché anche ieri sul Sole 24 Ore c'era un altro dato dal quale vorrei partire, dagli ascoltatori, dall'onorevole Pugliese, che a far capire che i condoni in realtà hanno fatto incassare meno soldi di quelli che sono costati, perché per esempio il condono edilizio a Roma, lo ricordava anche il Corriere due giorni fa, gli oneri di urbanizzazione per mettere poi a posto le case condonate, alla fine il bilancio è stato che il condono, altro che far fare cassa al Comune di Roma, è costato più per oneri di urbanizzazione per mettere a posto le case. E allora, insomma, conviene anche economicamente questo condono o no per fare cassa? l'idea di un condono. 800240024. Alessandro da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Faccio un esempio. Io sono un piccolo imprenditore, ho parecchie cartelle esattoriali da pagare, non riesco a pagarle per via della crisi perché non ho liquidità in questo momento. Un condono non sarebbe male, almeno lo Stato va attaccato a qualche soldo, se no l'unica cosa che mi resta da fare è portare il libro in tribunale, poi lo Stato non porta a casa nulla. Guardi, questo Alessandro, quando ne parliamo tutti i giorni, testimonianze come lei, anche ieri c'era un artigiano, l'altro ieri, che ci ha chiamato. Io posso capire, lei che però capisce che il condono è una cosa che non è che va a distinguere tra le persone, magari come lei, io mi fido sempre del racconto dei nostri ascoltatori, che dici non ce la faccio, l'alternativa è chiudere. Il condono vale per tutti. Molti ci scrivono, deve essere fatto, ma non per i furbi, quelli che sono veramente in situazione di necessità. E come si distinguono quelli quando si fa un condono? Cioè, Alessandro? Pronto? Come si distinguono quelli come lei che sono in difficoltà da quelli che sono invece i furbetti che ne approfittano? Beh, i furbetti. Pronto? Alessandro, mi sente? Ah, no, scusi, sì. La sentivo male. Sì. Voglio dire... si distinguono e come? Basta andare in giro, cioè voglio dire... No, ho capito, ma si distinguono, ma un provvedimento generale di condono, non è che può dire Alessandro da Pavia ne ha necessità, un altro invece è un furbo. Ma d'altronde quando mandano fuori dalla galera i delinquenti, sì, fanno un distinguo, però voglio dire, mandano fuori tutti, insomma, voglio dire, più o meno. Quindi tutti, c'è una sorta di indulto. Ma io capisco la difficoltà, però vorrei che capissero i politici che non fanno altro che blaterare, cioè dire parole al vento, che si andassero a informare e girare la gente, sentire quello che... La situazione in giro è drammatica. Allora non l'hanno idea, ma è drammatica. Va bene, grazie Alessandro. Onorevole Pugliese, le piace l'approccio dell'ascoltatore a dire, la pensa come... È quello che dicevo poc'anzi, chi come me vive il territorio, ascolta le esigenze dei cittadini, della gente, addirittura sul mio social network personale ho fatto dei sondaggi, siete favorevoli o contrari al condono, il 90% è favorevole, perché rispondono persone come il signore che ha chiamato prima, che non riescono più a portare avanti le proprie attività, piccole attività, l'Italia è una nazione basata sulle piccole e medie imprese, proprio perché la crisi ha prodotto degli effetti distruttivi rispetto al sistema fiscale un po' pure troppo oppressivo. Allora è viva un condono e poi subito una riforma fiscale, ripeto, a patto che il condono sia vincolato e non vada in contraddittorio con quella che è la lotta all'evasione però fiscale. Però così non è mai stato onorevole, cioè la storia dell'Italia ci racconta il contrario, cioè di condoni fatti, di soldi che poi non entrati veramente e soprattutto non sono stati utilizzati per gli scopi che lei dice. Sono stati fatti tanti condoni, come lei giustamente, sono introitati molti soldi nelle casse dello Stato e nella storia, però attenzione, l'ultimo, per esempio, faccio l'ultimo condono del 2002, fu la somma condonata fu realizzata per 12 mesi, ecco, per un anno. Allora, qual è il dato di fatto? Che fu un condono sbagliato, perché al pagamento della prima rata il condono già di per sé veniva diciamo condonato. Questo fu sbagliato perché le altre 9 rate non sono state mai pagate dai coloro che hanno soffritto del condono, e ha creato un grosso contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e con lo Stato. E quindi ecco, va fatto il condono, ma va fatto non solo vincolato per distinguere appunto evasore fiscale e chi verrà condonato, ma soprattutto affinché le somme che vengono incassate vengano vincolate per lo sviluppo, per l'economia. Mi permetta un attimo, volevo rispondere al senatore Garavaglia, ma non è il caso di aprire un contraddittorio con la Lega Nord. Innanzitutto volevo ricordare al senatore Garavaglia che le quote latte per gli imprenditori del Nord sono stati pagati lo scorso anno con i soldi FAS, fondi per le aree sottosviluppate, di cui l'utilizzo è destinato per le aree del sud. Quindi è un tema, la quote latte, il senatore Garavaglia è stato d'accordo quando abbiamo preso i soldi destinati al sud e abbiamo pagato le quote latte. Non è assolutamente vero che l'evasione è al sud, io conosco dei dati dove 6 su 2 sono al nord, c'è la proporzione di 6 a 2 rispetto a... E poi che ci sia... dire a Garavaglia che proprio i piccoli e medi imprenditori del nord, quelli che era l'elettorato padano, come si chiama, sono proprio quelli che chiedono, Il condono. Vediamo un po', beh, sul fatto che l'evasione sia più al nord, su questo magari sui grandi capitali, ma però insomma nella massa i dati credo dicano il contrario. In ogni caso, senatore Garavaglia, vuole replicare? Abbiamo un minuto, però effettivamente non c'è nel tessuto territoriale. Non replicare perché i dati sono stranoti e poi sì, però nel tessuto nel tessuto elettorale della Lega, effettivamente gli ascoltatori come quello da Pavia che ci ha chiamato, secondo lei non ci sono a chiedere un condono? Ma questo è evidente. Il punto è, vale la pena buttare via questa occasione e poi dopo alzare le tasse, perché di questo parliamo. Un condono fuori da un contesto eccezionale tipo oro alla patria, allora uno è sull'oro del baratro, le fa tutte. Ma un condono adesso per poi buttarsi via poi i futuri incassi di imposte, perché di questo poi alla fine parliamo. Perché abbiamo l'evasione così alta nel nostro paese? Perché abbiamo fatto 50 condoni, quando è il dato? Quanto era il dato? Sì, non mi ricordo. 58 più. Dal 1900. È logico che se uno sa che tanto poi arriva il condono, chi glielo fa fare? Il problema è esattamente l'opposto: ristabilire un clima di fiducia con il contribuente. Ma il clima di fiducia, se tu in una situazione come adesso di estrema difficoltà metti in campo un condono che nella migliore delle ipotesi ti porta a casa 3 punti di PIL, diciamo 30 miliardi, diciamo 40, vogliamo fare proprio brillanti, bene, ma dal giorno dopo chi paga le tasse? Fa anche perdere quella credibilità a cui faceva riferimento l'Unione Europea. Se siamo in Europa, insomma, qualcosa avrà un senso. Allora, io ringrazio l'onorevole Marco Pugliese, Forza del Sud, e il senatore Massimo Garavaglia della Lega Nord. Ci fermiamo qui, andate su 24 Mattino alla nostra pagina Facebook, ci trovate, continua la discussione. Grazie a Elisabetta Fusconi in redazione, a Viola Bottoni in redazione, anche Alessandro Longoni è rientrato, sì, eccolo qua, lo vedo. Carmelo Lauricella in regia, noi ci troviamo domattina alle 7:20.